database del PC. Ma che vuoi, proprio, cioè, è una cosa particolare, la scala non è per farla, non è per farla, ce ne sono di tre tipi, una che coincide col tornado e quindi c'è più espansione, ma sbaglierà di poco, però perché farla incasinata? Se tu a me mi dai lo smitter così com'è, capito? Così com'è, ti ritorno lo smitter con la scala perfetta, lo ti due. Cappa, e vabbè, adesso se non è che. Vabbè Gianni è stanco, non gliene porto neanche da lui, perché se no lo lascio riposare tranquillo, perché no, non voglio creare casini a lui e non lo voglio disturbare, capito? Se no me l'avrebbe portato lui a me. Sì, ma te lo smonta, se lo porti da Gianni te lo smonta. Una volta che tu togli la mascherina frontale e le manopoli, la manopoli, le verismi, cioè le veraggi, togli tutto, lì trovi lo smitter che esce fuori dal telaio, passa, molti fili, li isoli e lo rimetti, lo usi senza smitter provvisorio. Poi, come appena me lo porta, guardo la scala, come te la imprimo perfetta, identica, uguale, solo che come hai detto bianco-nero, cioè non mettetemi un colore perché non ho ancora l'alta definizione prismatica laser, me la devo ancora comprare, il plotter laser, e te la faccio bianco-nero, basta, che vuoi che ti dica, meglio di così, con la vernice speciale protettiva dura 7000 anni, manco se si cucina tutto l'apparato si brucia. Adesso vediamo se riesco a smontarlo, dai, e ti mando tutto quanto tramite Pinuccio, dai. Lo smitter, boh, non mi serve altro, lo smitter, basta, capito? Così provo la tensione della molla, provo tutto, vedo com'è, te lo riconsegno perfetto, basta, te lo tieni così, è una cosa più decente, e ti casi due garrete, fai un casino, fai, se vai a smontare la scala da dentro, magari pieghi l'ago, fai queste cose qua, mi. Già. Gianni, spara un minuto, già. Sì, ma Gianni, vabbè, già. Già. Spara. Sì, smontaglielo con lo smitter, caro, che glielo mettiamo a posto. Ma non adesso, non però. Adesso sono a letto. Non mi sto riposando perché poi devo rientrare a lavorare. Adesso no. Glielo smontiamo, ma... Glielo smontiamo magari domani. Quando vuoi tu, tanto gli devo fare solo la scala, non ci sono interventi gravi, è solo la scala, anche se tra parentesi è la più difficile che c'è, ma non ho problemi col PC, ne faccio tutti i giorni questi lavori, serigrafia sui macchinari, quindi, niente, tu, svolta quando vuoi, ma non è che tanto Leoncino non ci va a letto col vicetramettitore, quando può. Te lo porta quando sei tranquillo, capito? Glielo smonti, se me lo fa bene, poi chiuso. Magari dopo che tolgo lo smitter che c'è il buco. Niente, di mamma mia, quando siete tragici. E che se c'è il buco, che e qualche giorno è fatto, con mi libera appena io lo sistemo, e ti mi da fatto. Non ho compreso, tu mi hai detto non ci va a letto con l'apparato. E detto, magari ci va dopo che c'è il buco al posto dello smitter. No, non era logico per il momento, non era logico. Adesso è logico. Dopo che c'è il buco, come dici tu, vabbè, vediamo un po' cosa dici Leoncino. Non c'è problema, abbiamo usato quello di casa, non è riuscito. Ce l'ho detto, Datti uno smitter di precisione per buttarlo lì e rimanerci. 3 mm di spazio per parte non serve a niente. Anche, ho anche quelli professionali per la lettura degli industriali che sono centesimali, ma farebbe ridere, lì dentro sarebbe come dare il caffè all'asino, né più né niente. Ti faccio una scala serigrafica per quell'apparato e vedi come va bene. Già so cosa facciamo, ti portiamo tutto l'apparato e lo vedi, glielo piaci tu, glielo tari tu, triturato, perché poi vorrà anche tarato lo smitto. Ma no, non c'è bisogno, la scala gliela faccio identica a quella esistente. Alice, avanti. E qualcuno che sta ridendo, vuol dire che ha appetito, voglio dire, avanti. È bello che ogni tanto faccia intervento qualche pagliaccio. E lì roba, capito? Allora lo diamo a Rapido a sistemare. Avanti Rapido! Sarà qualche parente suo, capito? Questo è uno di quelli professionali. Avanti Rapido! No, allora non è lui, Questa volta mi sono sbagliato, avanti già! No, io gliel'ho riconosciuta la risatina. L'ho riconosciuta. Forse sta arrivando e lo vuole fare lui. Faglielo fare a lui o Giuseppe. A me benissimo, a me va benissimo, non c'è nessun problema, pensavo di fare un atto di cortesia, fallo fare a quello lì. Giuseppe, riconosciuta la resa. Oh, chi era già? Sì, io glielo riconosciuto. Ma avete sentito dell'omicidio che c'è stato a Porto Torres stamattina? Dove? Porto Torres, c'è stato un omicidio. Mentre c'erano i carabinieri che andavano intorno tutta la mattina con le sirene. E che morto? Un omicidio poi c'è stato, però non so di che cosa si tratti, perché me lo stava dicendo un collega, non ho sentito nulla. Ho sentito solo delle sirene, dei carabinieri e cose, però mi hanno detto che c'è stato un omicidio. Ehi! Già, si vede che c'erano cose da regolare. Ma canto male è roba di donne, roba così. È sempre la stessa storia, quando circola è roba di droga, non c'è niente da fare, ma ce ne sono un sacco, ce ne sono, oramai è tutto appestato, fanno schifo, vabbè non ne parliamo neanche perché se ti parla di queste cose mi dà fastidio, non li voglio neanche sentire, e basta. Non droga, donne, vabbè, comunque se c'è qualcuno che sa fare quel lavoro così sulla scala non c'è problema, io ripeto, lascio fare a chi sa fare, non entra, beh, evidentemente sa solo ridere, riprendi Giuseppe. Era una risata dai lupi. Già, lo sai cosa ti dico? Quando una persona ha i coglioni si fa vedere e si fa conoscere dappertutto. Questi così si fanno conoscere a breve raggio, cioè vale a dire 150 metri da te e forse 500 metri da me, ma non di più, Vabbè, non te la prende, ma stava scherzando, va. Andrà bene. Peppello, Peppino, Peppone. Via. Intanto sparisci di radio di nuovo. Gli ho messo anche la massa già. La sto facendo sempre quell'effetto, Cosa vuoi ti dire? Quando esce a bene il microfono, magando l'abbigliando, non si sente più nulla, forse poco fa non era importante, ma era. Ho detto, a coprire altro bisogna che si trasmette in un raggio di 50 metri. C'è anche il Tonino, Tonino. Io. E ripeto. No, c'è bene. Il microfono di cosa, Giuseppe? Quando si blocca neanche Gesù Cristo lo mette in moto. Vigilante. Cappa, c'è qualche cosa, ragazzi. Qualche filo che va, tocca o non tocca, magari qualche filo di saldato. No, non è filo di saldato. Senz'altro vuole preso questo microfono e spostato il filo della, come si può dire, della marcia, è capito, vuole spostata, vuole aperta, è spostata in un'altra maniera, è eliminata questa cosa qua, è capito, però il microfono esce benissimo, c'è la batteria nuova, tutto quanto, e vedi come sta uscendo, cambio, compro e vendo, avanti Torino, Attila. Vabbè, quanto si costa un fattolo questo spostamento di filo? Almeno non ne hai più problemi, capito? Ogni tanto sparisci, entra, va lì, se ne va, Già, ci sentiamo dopo, Tonino e Giuseppe. Chiamata, devo andare a fare un intervento. Ci sentiamo dopo, ciao a tutti. Ciao, ci sentiamo, buon lavoro. Avanti, Peppe, cosa hai detto che devi cambiare un filo? Quel solito discorso già lo sai, di quella massa. Capito? È molto bene che l'hai fatta questa massa. Via. Allora non è questione di massa, è questione di qualche filo interrotto, che tocca o non tocca, bisogna vedere. Ma ti ricordi quello che l'abbiamo fatto noi, quella cosa là, quei fili della batteria, tutto quanto? Senz'altro, non lo so, come cazzo c'è, ci sarà altro, poi bisogna smontarlo e vedere cosa cazzo gli ha preso. Ma dimmi che cosa ci può entrare la batteria. Anzi, era un casino, te l'ho fatto nuovo l'attacco della batteria. È fatto ad hoc, non a livello di cosa, di pasticcio. Fatto bene, tutto tanto. Cosa ci può entrare la batteria quando il microfono non esce? Sta funzionando, quindi l'elettricità passa, però non si sente. Potrebbe essere la capsula, potrebbe essere qualche filo interrotto, ma non c'è quella la batteria, perché il microfono sta funzionando. E allora saranno i contatti che vogliono farti bene, capito? Vorranno saldati bene tutto quanto. E smonta lo fai, cosa devi fare? Te ne fai piano, a uno a uno ti rifletti. Io ho cambiato una decina di fili, capito? Cambiati, invece più grossi, risaldati, fatti, un po' di pazienza ci vuole. E va bene, ok, dai. Cappa del Rogero. Ci sentiamo più tardi, dai, che mi metto a posto con la canale a pesca, già. Appagato. L'importante è per andare così, non ci abbiamo esca. Appunto perciò, però mi ha procurato i soldi e a limite si può fare venerdì prossimo, o sabato, o una domenica. E vediamo adesso, va. Tappa. Ciao Giuseppe, ci sentiamo più tardi allora. Avanti tu. Vado a dire oggi, allora. Una patata la fai mettere come esca, già. Una patata. Ma quale patata? Faccia lui a pentoloni. No, guarda, l'esca si può trovare benissimo. Al mare l'esca si trova sempre. Vuole fatta. Bisogna andare con la pila, prendere i granchietti, e quelli del mare sono ancora meglio di quelli che vengono. Per i granchietti. Più piccoli sono, meglio, se no vai nella battigia della spiaggia, ci metti una sardina legata a una canna, a un bastone, e lei fini nella battiglia, dopo 5 secondi metti i granchietti salendo, prendi con la mano, un palmo, ne prendi anche 10, 15. Figurati, visto? E vabbè, pazienza ci vuole. Ci vuole anche il tempo, perché Giuseppe il sabato è impegnato col figlio e quindi non si può andare a fare l'esca. Io vado a lavorare anche di sera, il sabato, quindi un po' così, io già sono a portata di mano perché esco dal lavoro e ci ho portatore a due passi. Io sono già portatore, sto lavorando, quindi vado a Platamona per dire e c'è da pescare, vado a portatore se c'è da pescare, vado da tante parti posso andare da lì, capito? Io faccio uscire dal lavoro e andare a pescare come facevo tutti gli anni. Sei in zona. Ma molto che bene. Allora di quell'omicidio non si sa se è giovane, se è anziano. Allora quello che hai detto, una questione di donne, se è giovane roba. Non lo so, mi stavano dicendo il figlio di chi era, i miei colleghi, però non ho capito bene. Mi hanno detto che la mamma abita a Sattinze, però non so chi sia. Papà di Roger, un attimino, mi hanno chiamato già. Ah, vaga. Sono rimasto sulla canaletta 4. Attenzione, binario 4.